canzone di bugie, di un grande amore mezzo fa, scritta rubando melodie e le salviette in questo bar, in un agosto di azalee. Il tuo rossetto è ancora là, sulla tazzina di un caffè, sorride solo per metà, senza te, che ora sei un pezzetto di fotografia, una ragazza esplosa, un po' francese di Shanghai, fosforescente di allegria. Era il tuo corpo di bonsai che galleggiava per magia sui tacchi stanchi di musei. In quell'errante libertà di mercatini e trattorie, avvolti dentro un celofan e luccicanti come idee di champagne. Va presa con filosofia questa girandola di te. Ho perso un'altra lotteria, sono un biglietto che non c'è. Ma se avessi personalità e non le solite fobie, se ricordassi come fa quella canzone di bugie. Truccate da imbecillità, se ne facessero tornei, almeno vincerei gli europei. Tuttavia, di medaglie ti voglio e vorrei, potrei riempire casa mia. Mastico nel blu di questo cielo senza idee, evaporando fin lassù per ricadere sugli ormai. Ma intanto le opportunità vanno soltanto a simpatie, e canta solo chi la sa questa canzone di bugie. Non faccio a tempo a dirmi ciao, che casco dentro un altro film. Il tuo sorriso si ricrea col fongo della fantasia, tu che ci fai ancora qui? Diritta come i tuoi collants, mi sembri la pubblicità del dentifricio sorridente. Prendi la borsa e te ne vai, nel via vai, del vai via. Una canzone di bugie.